Palla Spicchi con Carlo Genta. Buonasera a tutti, Palla Spicchi che resta ogni domenica sera a quest'ora fino all'assegnazione del titolo, mondiali compresi, o come isola cestistica all'interno dei mondiali, tutti i vari speciali che facciamo, insomma. Dunque, ieri sera nella sala stampa dell'Alto Forno del Pianella ho fatto frettolosi complimenti privati all'allenatore dell'anno, Andrea Trinchieri. Ci tenevo molto a renderli pubblici questi complimenti. Andrea, buongiorno, ciao. Buonasera, troppo buono, perché non dimentichiamoci che abbiamo perso ieri la semifinale. Sì, quindi... però Andrea, quando vedi una squadra andare, come siete stati voi, oltre i suoi limiti, ed è stato così anche ieri sera, anche se avete perso, mi sembra doveroso. Io ti ringrazio, vorrei che onestamente, in senso proprio idealmente parlando, i complimenti vanno fatti ai miei giocatori che veramente hanno messo da parte la coscienza dei propri limiti e dei propri difetti, che erano tanti, hanno cercato di limare qualcosina e hanno fatto veramente una stagione irripetibile per l'abnegazione, il sacrificio e poi anche i risultati, perché non ci dimentichiamo che abbiamo raggiunto una semifinale, abbiamo giocato contro Siena, che è una squadra di marziani. Sì, come hai detto ieri sera, hai detto anche che una stagione da incorniciare e mettere sul camionetto e guardarla nei giorni di pioggia. Sì, perché non bisogna mai fare... Allora, prima di tutto bisogna imparare a godersi i momenti, perché sono effimeri, ma almeno per quei 5 minuti fermiamoci a godercela, perché poi dopo, quando si fanno, è così difficile far bene che bisogna un attimino anche assaporare il piacere, però poi dopo non bisogna mai scendere, cadere nell'errore di rifare le cose nello stesso modo, perché Cantù ha insegnato, ed è proprio la scuola canturina, che bisogna sempre rifare tutto, perché noi non possiamo trattenere i giocatori migliori, abbiamo sempre da dare un occhio al budget e alle risorse che abbiamo, e quindi quello che mi sento di dire è che la squadra l'anno prossimo sarà diversa, perché insomma si farebbe un grande errore a provare a rifare tutto questo fatto quest'anno. Hai ragione, una squadra un po' strana e molto europea la tua, con un solo americano, Green, non brillantissimo ieri sera per la verità, casuale che abbia fatto... Ha sentito un po' la fatica, sì, di due partite assieme, l'hanno pressato praticamente in 25 con dei pitbull, quindi questo potrebbe aver... tra virgolette, ha faticato i suoi polpacci, già non da velocipede. Non ne avevate tantissima ieri sera, eh? No, però abbiamo i nervi, cioè onestamente sì, non ci siamo mai piegati. No. Ci hanno preso a pugni, hanno cercato veramente di prenderci per stanchezza. Ci sono riusciti fisicamente, ma non mentalmente. Questo mi rende ancora più orgoglioso. Assolutamente vero. Casuale il fatto che sia una squadra molto europea in questo risultato da incorniciare e mettere sul caminetto? Una squadra così atipica? Noi cerchiamo di giocare nel modo più europeo possibile, perché io penso che la vera pallacanestro sia in Europa. La pallacanestro che vediamo alle finali NBA è un'altra cosa, è business, è showtime e non è un modello riproducibile. Credo che invece la pallacanestro europea sia la massimizzazione delle risorse senza cercare di dipendere da nessuno, ma di avere un gruppo di persone che tutti remano nella stessa direzione. Io dico sempre che una squadra di basket è una specialità del canottaggio che non esiste, il 10 con. Ieri sera hai ammesso, senza falsa modestia, perché non è il caso, che dall'altra parte del tabellone, quella che si sta giocando anche stasera, forse per Cantù sarebbe stata un'altra storia, e non è detto che sarebbe già finita il 6 di giugno. Sai, io le chiamo le chiacchiere da bar sport. Però onestamente lasciatemi sognare, è gratis, perché dall'altra parte sono squadre che noi abbiamo battuto, specialmente in casa. Magari potevamo, tra virgolette, anelare a qualcosa di più e di meglio, però dai, va bene così. A volte bisogna anche saper dire basta. Abbiamo fatto il massimo, non siamo riusciti ad andare nell'altra parte del tabellone, però abbiamo avuto l'onore delle armi da parte di Siena, che è già qualcosa. E di tutto il basket italiano, io credo. Dimmi la verità, la soddisfazione più grande sta nei risultati che hai ottenuto sul campo o nel fatto di aver visto dei giocatori crescere? Nella qualità del lavoro di perfetti sconosciuti che hanno moltiplicato la somma del singolo valore rendendolo una cifra più alta, che per me è la più grande soddisfazione per un allenatore. Se noi valevamo 10 come somma di giocatori, abbiamo giocato da 15. Ti chiedo ancora questo, hai anche detto, per chiudere con molta chiarezza, che insomma che battere Siena in queste condizioni è praticamente impossibile, no? Guarda, per noi Siena è l'avversario peggiore, perché noi giochiamo, adesso non state male, però giochiamo in un modo simile a loro. Cerchiamo di costruire dei vantaggi sul campo, e il problema è che noi abbiamo troppo poco talento per avvicinarci a loro, cioè noi muoviamo la palla cercando, non dico di copiarli, ma abbiamo una traccia di gioco abbastanza similare. Il problema è che l'unico modo per cui tu puoi avvicinarti a Siena è o essere più fisico, o e quindi in Italia nessuno, sì, oppure avvicinarti un attimino con le giocate individuali, e noi queste non ce le abbiamo. Colpa mia, la squadra l'ho fatta con Bruno Arrigoni, quindi è colpa mia, però penso che dall'altra parte della medaglia c'è il fatto di aver fatto vivere una stagione al popolo canturino per certi versi indimenticabile, perché vedere questa gente che sotto di 20 ieri si tuffa per arrivare a meno 12 sotto i 2-0 è comunque una soddisfazione. Ricordiamoci, non è che gente che abita a Carugo, a Rosio, a Lecco, è gente che viene dall'Oregon, dalla Georgia, da Belgrado. Non è così scontato, ecco. Naturalmente, però quelli che abitano a Carugo, a Osio, a Lecco erano in piedi ad applaudire, e anche questa e anche questo, anche la cornice è d'oro, io credo. La cornice è pazzesca. Io potevo immaginare qualcosa di speciale, ma non così. Cioè, è stata una simbiosi, una sinergia con il popolo pazzesca, e questo è stato un altro dei segreti della nostra stagione. I giocatori che si sentono amati non perdono mai la fiducia nei propri mezzi. Grazie Andrea, buon lavoro, visto che stai già lavorando di nuovo. Sì, ti ringrazio molto. Grazie davvero, grazie ad Andrea. Ciao. Trinchiera, allenatore dell'anno e allenatore di Cantù naturalmente, con cui abbiamo aperto, mi sembra doveroso, questa puntata di Palla Spicchi, mentre l'altra semifinale è in corso, ma insomma nei GR serali tutti i risultati del caso. Intanto saluto e ringrazio il mio amico Stefano Valenti da Superbasket. Ciao Stefano. Ciao Carlo, buonasera a chi ci ascolta. Buonasera a te. No, stavamo chiacchierando amabilmente con Andrea Trinchieri, che oltre a un bravissimo allenatore è anche un gran personaggio, secondo me. A proposito di allenatori, il mercato si è già aperto, eh? Avellino con Vitucci, Pilastrini che dopo il flirt con Avellino va a Montegranaro. Insomma, un gran valzer. Sì, di solito si comincia da qui. Quello degli allenatori è un po' anche un mercato con effetto domino, finché non se ne libera una non si parte, e adesso si è partiti. Di fatto hanno trovato già panchina nuova due allenatori che avevano già iniziato la stagione scorsa, quindi in questo momento vuol dire che non ci sono new entry in questo campionato, però dobbiamo anche aspettare di vedere quello che succederà su panchine importanti. Ovviamente si attende la decisione di Roma in primis, e magari la decisione di Roma potrebbe anche innescare un altro movimento, diciamo a livello più alto, sì, che potrebbe riguardare pezzi importanti, e perché no lo stesso Trinchieri. E perché no Simone Pianigiani? Guarda, io con Mourinho ci ho preso, anche in questo caso è solo una sensazione, però non sono sicurissimo che Pianigiani sarà allenatore di Siena l'anno prossimo. La tua è un po' una filosofia da sign and trade, cioè lo firmo e poi vediamo cosa fa, cioè in stile NBA sostanzialmente. Chissà se magari Cleveland lo farà con LeBron James. Ti dovessi dire, mi avessi fatto questa domanda 3 mesi fa, avrei detto anch'io Pianigiani chiude qui con Siena. Poi c'è stato comunque, almeno pubblicamente, la notizia dell'estensione contrattuale. Ci sta, perché comunque è ovvio che per Simone Pianigiani Siena resta la miglior soluzione. È altrettanto vero che, guidato da una forte ambizione e dal desiderio di testarsi ad altissimo livello, qualche contatto con l'estero c'è già stato, perché ovviamente parliamo di estero, e Simone prima o poi un'esperienza all'estero avrà il piacere di farla, e glielo auguro, perché in questo momento è indiscusso che l'estero può significare per lui un salto di qualità, nuove sfide, vedersi al di fuori dall'ambiente che è anche protettivo di Siena. Quello che Ettore Messina disse quando poi lasciò la Virtus, sì, mi voglio testare fuori da Bologna. È lo stesso sentimento che anima Simone Pianigiani, che avrà già una prima verifica allenando la nazionale in un momento complesso e magari un domani l'avrà anche lasciando Siena. In questo momento è impensabile che lasci Siena per l'Italia. Ecco, questo, certamente, questa è la mia opinione. Certamente. Palla spicchi. Eccoci tornati. Dunque Stefano, al di là dei movimenti degli allenatori andiamo sul campo. Io sono tenuto a fare complimenti pubblici ad Andrea Trinchieri, perché anche ieri sera Cantù, secondo me, ha dato un grande spettacolo. È stata letteralmente asciugata da Siena, che ha tolto energie, ha tolto tutto quanto poteva a due giocatori fondamentali per Cantù come Green e come Lunen, perché lì ha puntato Siena e mettendola sul fisico contro questi non c'è nulla da fare. Guarda, Siena è cinica, i complimenti a Cantù sono dovuti perché finché ha potuto essere competitiva ad alto livello lo è stata. Quando arrivi al confronto con Siena tutto cambia, tutti i parametri, tutte le tattiche, tutti i matchup inevitabilmente cambiano. È altrettanto vero che ieri Siena ha giocato forse la partita più difficile di questo playoff sul campo più caldo d'Italia e lo ha vinto con gli uomini della panchina. Avrinovic è stato l'MVP, ma canestri molto importanti li hanno segnati Zizis, una tripla dall'angolo di Domerkant e anche Thomas Ress ha giocato una partita solida. Quindi, riconosciuti i meriti di Cantù, Siena veramente spietata, ha vinto gara 3 al Pianella col secondo quintetto. Sì, sì, sì, un secondo quintetto che vale il primo di molti altri. Ieri sera, Trinchieri, a domanda di un giornalista senese sulle possibilità di Siena alla finale scudetto, la guardata gli ha detto: si vede proprio che siete la città del palio, perché nemmeno ci fosse l'invasione dei marziani, lo tsunami, il terremoto e chissà quant'altro, Siena potrebbe perdere una, anche forse una sola partita in una serie di finale scudetto al meglio delle sette. È vero, è chiaro che la contingenza di giocare la finale al meglio delle sette in questo momento è un ulteriore vantaggio per Siena e lo è per la squadra più forte. In questo momento Siena, domani chissà chi altro. È il momento in cui si fanno anche le strategie per la prossima stagione. Temo, da quello che si sente in giro, che Siena, la squadra per l'anno prossimo, con qualche cambiamento più o meno ce l'abbia già firmata, e le altre no, perché poi è vero che noi diciamo genericamente aspettiamo una flessione di Siena e poi auguriamoci che ci sarà qualcuno pronto a rilevarne il ruolo. Allora, che Siena abbia una flessione è da dimostrare, che le altre sfidanti, quindi diciamo Roma e Milano in primis, abbiano già chiare le strategie per il futuro, ho dei forti dubbi, e questo secondo me è storia degli ultimi anni e ci dà l'idea che questa flessione di Siena è ancora lontana da venire. Sì, l'impressione è questa, anche la mia. Per chiudere Stefano, Siena, che comunque anche dal punto di vista tecnico e fisico si è presentata nelle condizioni migliori e ideali per questi playoff, perché ho visto tutti e 10 giocatori con tanta energia, al di là delle dichiarazioni di Pianigiani, poi per noi è molto, facciamo un basket molto dispendioso, quindi è faticoso giocare una volta ogni due giorni, eccetera, eccetera, eccetera, però è indubbio che anche dal punto di vista fisico Siena stia meglio di tutte le altre. Sai, Siena ha un vantaggio non da poco. Inizia la partita, palla 2, tutti i giocatori sanno di poter essere importanti, nessuno sa di dover essere il giocatore della partita. Non c'è giocatore che va in campo con il timore di avere, parlo dell'Italia ovviamente, una situazione falli. La squadra avversaria solitamente ha delle lacune o delle difficoltà o dei rischi se uno o due giocatori chiave hanno problematiche di falli. Siena non ce le ha, può spingere sempre, può portare all'esasperazione la velocità, l'aggressività della difesa, la fisicità a rimbalzo, e questo è un bel lusso. Grazie Stefano, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie a Stefano Valenti, dunque, ed ecco il momento di chiudere il programma con i pareri di Flavio Tranquillo. Ciao Flavio. Buongiorno. Buongiorno a te. Un primo pensiero che ti chiedo è per Cantù, abbiamo parlato prima con Trinchieri, insomma, un pensiero che per Cantù cui non è riuscito l'ultimo miracolo, perché miracolo sarebbe stato quello di battere Siena, ma che per usare le parole di Trinchieri, incornicia questa stagione, la mette sul caminetto e la guarderà l'anno prossimo nei giorni di pioggia. Beh, questo mi sembra giustissimo, perché rispetto al valore teorico e pratico del roster, fare le semifinali è stato un traguardo eccezionale. È ovvio però che a livello di sistema, se una squadra che teoricamente non vale le semifinali le fa, c'è moltissimo di quella squadra e c'è anche un po' delle altre, e la sostanza è che è stata una semifinale che non sapeva di semifinale, col che Cantù non c'entra assolutamente zero, anzi può fare tutte le cornici e deve fare tutte le cornici che vuole, però per noi che guardiamo le semifinali le vorremmo, le desidereremmo diversamente. Cantù ha prodotto tanti giocatori nelle ultime stagioni. In questa edizione di Cantù hai visto tracce di giocatori che possono diventare giocatori importanti? Sicuramente Lunen potrebbe essere un giocatore molto importante in Europa, però credo che sarà un simile a Rascioni, anche perché gli assomiglia un po' come caratteristiche tecniche, nel senso che fa bene in Europa, poi prova l'NBA e magari sulla seconda parte della carriera torna in Europa. Però mi sembra che possa essere uno che sposta in Europa. Marco Isbili è decisamente un giocatore di assoluto interesse, e poi ce ne sono altri a un livello diverso. Questi mi sembrano i due più solidi in assoluto. Adesso diamo un'occhiata alla finale NBA di stanotte, ore 2, tutti davanti alla televisione, in compagnia di Flavio Tranquillo. Secondo atto, adesso tocca a Boston, credo, Flavio, mandare un segnale, al di là del risultato che poi sarà scritto sul tabellone, però serve un segnale di Boston per farci capire che questa serie esiste. Sì, sono d'accordissimo, però se il segnale è tale solo in quanto segnale, io credo che la serie finisca stasera. Sì. Cioè, se vincono i Lakers, non mi vedo i Lakers perdere poi la serie. I Celtics devono, secondo me, mandare un segnale e vincere, cioè fare quello che hanno fatto gli Orlando Magic lo scorso anno, disastroso in gara 1, molto peggio dei Celtics in gara 1. E in gara 2 non particolarmente entusiasmanti, ma barbicati alla partita e si sono messi in condizione di vincerla. Poi su un paio di episodi è girata quella gara 2, l'hanno vinta i Lakers. Me l'aspetto così, però ripeto, la chiave per i Celtics non è solo provarci, ma anche riuscirci per vincere la serie. Poi potrebbero benissimo tornare a Boston 0-2 e magari portare la serie alla settima, però poi vincerla da 0-2 mi par complesso. Quali gli errori da limare? Quali i difetti di Boston l'altra sera? Qual è la chiave dei Lakers per scardinare la difesa dei Celtics l'altra sera? Ma secondo me è due chiavi. La prima chiave è: c'è stata una squadra che aggredisce, una squadra che viene aggredita, e da sempre a pallacanestro vince chi aggredisce, da sempre o quasi sempre i Celtics nelle ultime stagioni sono gli aggressori e invece in gara 1 sono stati gli aggrediti. E la seconda cosa è: c'è una situazione in cui Kobe Bryant non marca Rondo, ma non è che non lo marca senza senso, non lo marca per distruggere giocando da libero alla Pierluigi Cera il resto dell'attacco avversario. E dall'altra parte invece Ray Allen, che sarebbe il centro dell'attacco dei Celtics, non il centro come ruolo, ma il centro come punto, certo, focale, deve marcare Kobe Bryant, caricarsi di falli, di frustrazione, eccetera, eccetera. O i Celtics invertono questa seconda equazione tattica oppure è dura. Flavio, ti chiedo ancora questo, chi era John Wooden, un uomo di 99 anni che è morto venerdì notte? Mi piacerebbe che tu spiegassi ai nostri ascoltatori, magari non lo sanno chi era, se è possibile in un minuto. Guarda, te lo spiego con questo aneddoto che mi ha raccontato ieri un amico che fa lo scout in Europa per i Los Angeles Lakers, che anni fa si trovò a un evento che si teneva proprio a UCLA, l'università di John Wooden, in cui c'erano UCLA e North Carolina, ex giocatori di UCLA e North Carolina, quindi c'erano i Bill Walton, i Michael Jordan, i McAdoo, eccetera, eccetera. E tutti i presenti attorno ai 20, 30, 35 anni corsero a farsi fare l'autografo appunto dai Jordan, eccetera, eccetera. Tutti gli allenatori che c'erano lì ignorarono Jordan e andarono a farsi fare l'autografo e a scambiare qualche parola con John Wooden. Si parla spesso di santoni in senso negativo, John Wooden è stato probabilmente un santo, con una fedeltà coniugale che ha portato fino ai 99 anni, ben dopo la morte dell'amata moglie. l'uomo che ha inventato la pallacanestro moderna, l'uomo che ha fatto spendere delle parole di insospettabile spessore e intensità a un orso, autentico orso come Kareem Abdul-Jabbar, che lui ha allenato quando ancora si chiamava Lou Alcindor, l'uomo che ha inventato il taglio UCLA che usano ancora oggi tutti, compresi i Los Angeles Lakers, compresi i Boston Celtics, stanotte il basket, in poche parole. Grazie Flavio, buon lavoro. A voi. A presto. Grazie a Flavio Tranquillo, con cui chiudiamo questo appuntamento con Palla Spicchi. Domani alle 14 c'è Gigi Garanzini per aprire con la Tempo di Sport la settimana che ci porta ai mondiali di calcio. Buona serata a tutti.